Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Bando ai paesi islamici, la Corte Suprema degli Stati Uniti lo ammette per i cittadini che non hanno legami nel paese. Per Trump una vittoria. Ragazzo italiano accoltellato a Londra, causa ancora da accertare, dice Scotland Yard. I ballottaggi per Berlusconi, vince il centrodestra moderato, ribatte la Meloni, la moderazione non esiste. Renzi, risultato a macchia di leopardo e rivendica 67 sindaci contro 59. Convalidato l'arresto di Diele per omicidio stradale, ma manca il braccialetto elettronico, l'attore resta in cella. Roma come Pompei, scoperta una casa romana di legno, intatti parti di solaio, mobili, mosaici e affreschi. Buonasera ad Alessio Maurizi e benvenuti ad Effetto Notte, il racconto delle notizie del giorno in 60 minuti. Cominciamo con la politica, perché all'indomani dei ballottaggi delle amministrative il centrodestra festeggia la rimonta, il centrosinistra si divide invece sull'analisi del risultato, con Renzi, come sapete, che parla di vittoria, e invece la sinistra del PD che prende atto di una sconfitta. Di questo però parleremo tra pochissimo. Prima andiamo negli Stati Uniti per una notizia di questo pomeriggio, di questa sera. La Corte Suprema ha rovesciato i precedenti pareri delle corti federali che avevano bocciato il bando dell'amministrazione Trump, ricorderete. Bando agli ingressi di cittadini provenienti da 6 paesi musulmani. Un successo per Trump. In collegamento da New York, Marco Valsagna, buonasera. Buonasera a voi. Allora Marco, un bando che a questo punto, dice la Corte Suprema, si può applicare solo alle persone però che non hanno legami con una persona o con un'entità negli Stati Uniti, sembrerebbe un successo almeno parziale per Trump. Che cosa cambia? Sì, sicuramente è un successo parziale per Trump, perché appunto, come ricordavi, in precedenza 2 corti d'appello federali avevano invece bocciato i suoi ordini esecutivi sul travel ban come discriminatori e probabilmente incostituzionali. A questo punto la Corte Suprema ha accettato di dibattere il caso e di deciderlo, ma questo avverrà solo dopo ottobre. La discussione alla Corte Suprema comincerà quest'autunno, quest'inverno. Nel frattempo però la Corte Suprema ha accettato la richiesta della Casa Bianca di Trump sospendere le decisioni dei tribunali d'appello e di lasciare e quindi entrare in vigore una parte sostanziale del bando ai viaggiatori dai 6 paesi a maggioranza islamica, che ricordiamo sono tra l'altro Libia, Sudan, Somalia, Iran, Siria, tra gli altri. La vittoria è parziale, perché in realtà si applica solo a chi il divieto si applica solo a chi non ha ragioni bona fide, dice la Corte Suprema, quindi ragioni dimostrabili per venire negli Stati Uniti, quindi legami business o legami familiari. Quindi Trump ha sicuramente cantato vittoria, lo ha fatto subito attraverso i tweet, dicendo una decisione assolutamente positiva che rappresenta una riscossa per me. Ha detto la Corte Suprema ha deciso 9-0 a mio vantaggio. In realtà la Corte Suprema non ha deciso 9-0, perché ha semplicemente dato un parere non firmato, quindi non si sa effettivamente come i singoli giudici sono espressi, ma ha sicuramente dato appunto una vittoria parziale a Trump. La polemica però continuerà sicuramente, certo. E il test diventerà a questo punto, quest'autunno, quest'inverno, il dibattito poi in seno alla Corte con i pro e i contro al travel ban. Benissimo, grazie a Marco Valsagna. Dunque successo parziale, ma poi la partita rimane aperta sul bando dei cittadini provenienti dai 6 paesi islamici, una delle prime mosse della nuova amministrazione Trump. Restiamo all'estero per una notizia di cronaca che ci porta in Gran Bretagna, perché un ragazzo italiano, Pietro Sanna, di origini sarde, è stato accoltellato a morte nelle ultime ore a Londra, lo riferiscono fonti investigative in Gran Bretagna. Il consolato italiano è in contatto sia con la famiglia della vittima sia con la polizia, che sta indagando per fare luce su questo episodio. Non sono ancora chiare, secondo Scotland Yard, le cause e le circostanze esatte dell'accaduto. E ora invece, come dicevamo, la politica in Italia, partiamo subito dalle reazioni dei protagonisti ai ballottaggi di ieri. La vittoria ai ballottaggi nel centrodestra riapre il confronto su leadership e legge elettorale in vista delle politiche. Dalla Lega, Salvini chiede di esportare a livello nazionale il modello delle comunali. Se dopo decenni ci chiedono di governare Genova, di governare Pistoia, di governare Sesto San Giovanni, vuol dire che possiamo farlo anche a livello nazionale, con le idee chiare, senza dubbi o tentennamenti se stare un po' con Renzi o no. Ripartiamo da una coalizione con profilo liberale moderato, è però il messaggio che arriva da Silvio Berlusconi, il quale fa sapere di essere pronto a tornare in campo. A tentare una mediazione è l'azzurro Toti. Ho sentito Berlusconi e abbiamo convenuto che la coalizione di centrodestra è una forza importante su cui lavorare per il futuro, dice il governatore ligure a 24 Mattino. È molto anche deciso al fatto che c'è bisogno di mettere in piedi una coalizione e lavorarci, tornare a lavorare alla cremina. I programmi, i moduli e quant'altro. Ora non è stata una lunga telefonata programmatica, però non l'ho trovato ostile. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Matteo Renzi non vuole passare per capro espiatorio e si difende alle comunali. Questa è la teoria espressa in un tweet dal segretario PD. Il centro-sinistra ha vinto 67 comuni contro 59 conquistati dal centro-destra. Gli fa eco il presidente Dem Matteo Orfini, per il quale il modello Pisapia ha perso Genova. Sarà, ma intanto anche dentro ai Dem c'è chi chiede chiarimenti, come Andrea Orlando della minoranza, così al Corriere TV. Conseguenze di questo voto sono quelle di prendere atto di un isolamento politico e sociale, cioè il PD non solo ha un elettorato che ha perduto, ma un elettorato che spesso va a votare contro il PD. Io ho detto intanto discutere della ricostruzione di un centrosinistra. Non mancano poi le ironie del web e dei 5 Stelle che parlano di caporetto del PD con Renzi che fa finta di nulla. Beppe Grillo è soddisfatto anche grazie alla conquista di Carrara e ribadisce la linea 5 Stelle, così Riccardo Fraccaro. Vogliamo vincere, ma non a tutti i costi, perché una volta lì vorremmo poter fare veramente il bene della collettività e cambiare questo sistema paese che ormai nessuno più vuole realmente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E prova a tirare le somme di questa tornata elettorale, Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Il dato di queste amministrative, per quanto parziale, non automaticamente esportabile in chiave nazionale, sentenzia una clamorosa sconfitta per il centro-sinistra e quindi per il PD, che di quell'alleanza è il partito principale, e la vittoria netta del centrodestra, di tutto il centrodestra, che conquista Genova, Verona, ma anche a sorpresa L'Aquila e Pistoia, dove in partenza partiva sfavorito. Sullo sfondo resta il Movimento 5 Stelle, che il ballottaggio ha fatto per lo più da spettatore, subendo anche lo smacco della rivincita dell'ex grillino Pizzarotti a Parma. Adesso è da capire quanto questa tornata elettorale influirà sugli assetti delle diverse forze politiche in vista della sfida per il governo del paese che tra qualche mese ci troveremo davanti. È abbastanza scontato che nel centro-sinistra le divisioni e l'acrimonia che ha caratterizzato questi ultimi mesi diventeranno ancora più forti e le dichiarazioni post-voto lo stanno già confermando. Nel mirino c'è Matteo Renzi, costretto a difendersi dagli attacchi della minoranza ma anche da quelli di MDP, il partito di Bersani. Il rimpallo di responsabilità rischia ora però di riflettersi anche sugli equilibri della maggioranza di governo, già resi traballanti nelle ultime settimane, come si è visto in occasione del voto sulla manovrina, ma anche sulla mozione per le dimissioni dei vertici Consip. All'indomani dell'approvazione del decreto sul salvataggio delle banche venete, il Premier Paolo Gentiloni difende la scelta di finanziare l'operazione di salvataggio tramite Intesa, il salvataggio, ricordiamo, di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Intanto però proprio Banca Intesa avverte il governo sul decreto. Un intervento legittimo e doveroso fatto nel rispetto delle regole europee. Gentiloni difende così l'ok di Palazzo Chigi allo stanziamento di 5 dei 20 miliardi del decreto salva risparmio per il salvataggio delle banche venete attraverso la cessione a Intesa per un euro. Soldi destinati ai 2 milioni di clienti, risparmiatori e imprese, ha sottolineato il Presidente del Consiglio, non a chi ha creato il dissesto finanziario. Soldi che il governo spera tra l'altro di recuperare. Mi auguro che la gestione dei crediti deteriorati ai quali sono destinati in larghissima parte questi 5 miliardi consenta di recuperarli in tutto o in parte nei prossimi anni. Gentiloni si è poi rivolto al Parlamento auspicando una larga maggioranza sul testo. Se infatti il decreto dovesse saltare o anche solo subire modifiche in fase di conversione, Banca Intesa si sfilerebbe dal progetto, condannando al fallimento i due istituti veneti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di nuovo con la cronaca, arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione del GIP del Tribunale di Salerno per Domenico Diele accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Di Lillo, travolta sul suo scooter dall'auto guidata dall'attore nella notte tra venerdì e sabato. Ieri l'attore ha incontrato in carcere il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha raccontato il suo colloquio con Diele ad Adriano Palazzolo. Sentiamo. Io ho trovato una persona molto provata fisicamente, lui ha detto che è colpevole, che deve pagare la pena, che non sa come potrà fare per chiedere scusa anche in ginocchio ai genitori della vittima, ma che non è stato un incidente dovuto al fatto che lui è un eroinomane che gira come un pazzo con la macchina. E ho fatto presente che però lui non poteva manco avere la macchina e che quindi è estremamente grave quello che ha fatto. Gli ho detto che la responsabilità è sempre sua, ma non perché era sotto l'uso di stupefacenti, ma perché si è distratto, non funzionando bene il suo cellulare, un pulsante del suo cellulare, per tentare di chiamare, e quindi ha andato a sbattere contro questa persona. Se ne è accorto solo quando si è fermato, perché mi ha raccontato lui che si era aperto anche l'airbag, c'è stato del fumo. Quando è uscito ha trovato il corpo esamine di questa vittima e ha chiesto immediatamente aiuto, e poi è successo quello che è successo. E come detto, il giudice ha disposto i domiciliari con il braccialetto elettronico per Domenico Diele, ma lo strumento non si è reso disponibile, e quindi, fanno sapere i magistrati, ci vorranno ancora alcuni giorni per trovarlo. Per questo il 31enne resta per ora nel carcere di Salerno. Ora parliamo di caldo e siccità, perché con i temporali in arrivo fortunatamente al nord si è alleviata l'emergenza in questa parte d'Italia, ma resta critica la situazione invece nelle regioni meridionali. Facciamo il punto allora sull'Abruzzo. Il gran caldo di questi giorni e la conseguente siccità rendono preoccupante la situazione nelle campagne abruzzesi. A richiamare l'attenzione sul problema è la Coldiretti Abruzzo, che evidenzia come in particolare l'area della Marsica, in provincia dell'Aquila, considerata una sorta di orto d'Italia per le varie colture presenti, stia vivendo un momento di grande difficoltà. In questo periodo i produttori sono impegnati nella prima raccolta e la necessità di acqua è molto forte, perché incide sulla quantità prodotta. Si stimano già danni per 100 milioni di euro per le circa 2.000 aziende agricole della zona. La siccità crea emergenza idrica anche in provincia di Teramo, in particolare in Val Vibrata, dove l'acqua scarseggia, con fiumi dalla portata sempre più ridotta. Per una esigenza di razionalizzazione sono stati predisposti fermi di irrigazione per tutti i fine settimana. La situazione è molto grave, potrebbe peggiorare a metà agosto, dice Giulio Federici, direttore Coldiretti Abruzzo. Una siccità così anticipata non si verificava da anni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. E ora la pagina sportiva, iniziamo con il nuovo capitolo della telenovela Donnarumma. Siamo portati a pensare che l'ormai grottesco caso Donnarumma abbia stufato tutti, perfino i milanisti più accaniti e accesi, perfino gli insultatori professionisti del web. Mancano solo gli zii e i nonni del portiere e di Raiola, e poi si sono immischiati tutti, anche fantomatici hacker di Instagram. Alla fine l'impressione è che Donnarumma resterà in rosso nero con un contratto comunque pazzesco per un diciottenne, e Mino Raiola, il pontefice massimo dei procuratori, subirà, al di là delle apparenze, la prima onta di una carriera da uomo che non deve chiedere mai, solo incassare. Gli sconfitti sono molti in questa soap opera dei tempi moderni, in cui non si parla più ma si cinguetta, tutti come ragazzini drogati di tecnologia. Tra coloro che perdono anche la Federcalcio italiana, perché Gigio domani difenderà la porta azzurra nella semifinale europea con la Spagna, e nessuno tra quelli che indossano la giacca e cravatta azzurra ha fatto un plissé davanti alla bufera che ha travolto un giocatore e una squadra al momento sotto la loro egida. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto si viene a sapere che la Fiorentina è in vendita. La decisione, presa direttamente da Diego e Andrea Della Valle, è stata annunciata sul sito ufficiale del club Viola in risposta alle contestazioni di parte della tifoseria finora insoddisfatta dalla campagna acquisti dei Viola. E a proposito di sport, cambia, o meglio potrebbe cambiare, lo scenario dei diritti televisivi dei prossimi anni con una inedita alleanza tra l'italiana TIM e la Discovery. Per TIM è l'ingresso nel mondo del grande sport. Con Discovery ha siglato un'alleanza sui diritti sportivi per le Olimpiadi invernali in Corea del 2018 e quelle estive di Tokyo del 2020. Discovery, che controlla Eurosport, ne ha tutti i diritti, acquisiti insieme con le altre Olimpiadi fino al 2024 per la cifra monstra di 1 miliardo e 300 milioni in tutta Europa. TIM, a sua volta, diventa ora Official Mobile Broadcaster. tradotto, potrà legare in via esclusiva il suo brand a quello dei cerchi olimpici. Sui contenuti ci sarà poi un canale che i clienti TIM potranno seguire sugli smartphone, ma anche in TV tramite la piattaforma TIM Vision. L'intesa si completa poi con una seconda gamba. La compagnia telefonica aggiungerà proprio su TIM Vision i due canali tematici di Eurosport, quindi Olimpiadi, ma anche Giro d'Italia, Tour de France, Roland Garros, Mondiali di Nuoto, solo per citarne alcuni. Discovery monetizza così parte dei suoi diritti in attesa di sbloccare la trattativa con la Rai sul Free. TIM, dal canto suo, inizia a sperimentare l'approdo sui contenuti sportivi, con l'idea di provare a fare il salto di qualità. Del resto, l'asta sulla Serie A si dovrà rifare in autunno. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 21 e 17 minuti, ci fermiamo qua per questa prima parte di Effetto Notte. 349-238-6666, se volete scriverci, torniamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Bando ai paesi islamici, la Corte Suprema degli Stati Uniti lo ammette per i cittadini che non hanno legami nel paese. Per Trump è una vittoria. Ragazzo italiano accoltellato a Londra, causa ancora da accertare, dice Scotland Yard. Ballottaggi per Berlusconi, vince il centrodestra moderato, ribatte la Meloni, la moderazione non esiste. Renzi, risultato a macchia di leopardo e rivendica 67 sindaci contro 59. Convalidato l'arresto di Diele per omicidio stradale, manca il braccialetto elettronico, l'attore resta in cella. Roma, come Pompei, scoperta una casa romana di legno, intatti parti di solaio, mobili, mosaici e affreschi. Ben ritrovati, di nuovo buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Notte, il racconto delle notizie del giorno, il tutto in 60 minuti. Ripartiamo con la politica, perché come avete sentito il centrodestra litiga sul concetto di moderazione, Berlusconi parla di una coalizione moderata e liberale vincente, in riferimento ai risultati dei ballottaggi, ma Giorgia Meloni replica: la moderazione è una categoria che in politica non esiste più, gli italiani, dice, ci hanno fornito un'indicazione chiara, se il centrodestra mette in piedi un programma serio con persone credibili che dica prima agli italiani non c'è partita, conclude la Meloni, né contro il servilismo di Renzi né contro il qualunquismo di Grillo, che sono due facce della stessa sinistra. Questo per quanto riguarda il centrodestra, con Giorgia Meloni tra l'altro determinante per la vittoria per esempio del centrodestra in una città come l'Aquila, ne parleremo tra poco. Matteo Renzi twitta 67 contro 59, a sottolineare il risultato comunque positivo secondo lui per il centrosinistra e per il Partito Democratico, ma l'ex sfidante alle primarie del PD Orlando dice Renzi deve prendere atto che è una sconfitta e il PD è isolato. La sconfitta riguarda soprattutto i comuni che durante il ballottaggio hanno cambiato casacca, per così dire, comuni che prima erano amministrati dal centro-sinistra e sono passati al centro-destra. La situazione è particolarmente significativa con le vittorie del centro-destra in Lombardia. Sentiamo. La ridotta del PD nei ballottaggi delle amministrative parte anche dalla Lombardia, dalle storiche roccaforti oggi passate al centrodestra. 16 vittorie contro 9 del centrosinistra e 2 di liste civiche. Il caso più determinante è certamente quello di Sesto San Giovanni. È stato Roberto Di Stefano di Forza Italia ad espugnare la Stalingrado d'Italia dopo 70 anni ininterrotti di giunte rosse. E il risultato sul piano numerico è a dir poco clamoroso. Di Stefano in cassa il 58,6% contro il magrissimo 41,4% di Monica Chittò. Questo vuol dire che pezzi consistenti dell'elettorato storico della sinistra non si sono recati alle urne oppure hanno votato per il centrodestra. Questa tendenza la vediamo proiettata anche a Lodi e in forma minore a Monza. A Lodi il risultato della leghista Sara Canova ha superato la più rosea aspettativa e il centrosinistra va all'opposizione con il 43,1%. La stessa cosa è avvenuta in molti comuni dell'Interland milanese, Magenta, Senago, Legnano, Abbiategrasso. Da quelle parti di solito si annunciano i grandi cambiamenti, forse proprio lì si scoprirà dove tira il vento nuovo. Dopo 3 anni Padova torna al centro-sinistra con l'affermazione di Sergio Giordani, imprenditore ex patron tra l'altro del Calcio Padova, decisivo però per questo risultato. Sembra essere stato l'apparentamento tra il primo e il secondo turno con la lista, con la coalizione civica del professor Lorenzoni, che di area Pisapia, che aveva ottenuto una buona affermazione al primo turno. Allora, buonasera a neo sindaco quindi di Padova, Giordani. Sì, diciamo che è stata una coalizione decisamente interessante, anche con gli stessi valori. È stata l'arma vincente trovarci assieme, abbiamo le stesse visioni, per cui è stato molto facile trovare l'accordo. Ecco, diciamo, ma già si parla però, Giordani, di un modello in qualche modo, no? Di un modello Padova, cioè questa riproposizione in qualche modo di un'alleanza tra la parte più riformista e quella più di sinistra, tra l'area di Pisapia e quella di Renzi, eccetera, eccetera. Lei conferma questo risultato? Sì. Mi sembra di sì. Insomma, potrebbe essere anche un modello a livello nazionale da riproporre? Potrebbe esserlo. Alla fine abbiamo fatto un'unione in cui è prevalso l'aspetto concretezza contro il populismo. Il populismo è molto facile, prendere voti e parlare alla pancia della gente. Noi siamo stati lungi dalle offese, dal denigrare l'avversario, ma ha fatto progetti politici e gli elettori ci hanno creduto. Il populismo è sempre un mix molto facile, dire tutto sbagliato, bisogna rifare questo, non si può fare l'altro, però alla fine secondo me non paga. E gli elettori e i cittadini avevano già provato 3 anni di governo di un certo tipo e penso che abbiano scelto un'altra strada. Ecco, ma per capirsi, no? Mi dice una cosa su cui si distanzierà nettamente, cambierà rotta molto nettamente rispetto a quella che è stata la gestione di Massimo Bitonci. Lei ha vinto il 51,8% contro il 48,2% di Bitonci, che tra l'altro dice che la vostra sarà una coalizione troppo eterogenea, perché va dalla sinistra fino a elementi di centro, quasi di centrodestra. Sì. Sicuramente la nostra è eterogenea, ma la sua, che era omogenea, non è riuscito a reggere proprio la sua maggioranza, è stato sfiduciato dagli stessi suoi, per cui non è che abbia tanto da imparare. La nostra è vero, è molto eterogenea, però sono tutti persone che alla fine hanno dei valori che sono molto simili e a tutti noi interessa Padova. Per cui quali sono le cose che differenziano? Probabilmente il sociale, per me il sociale è una cosa molto importante, mentre per l'amministrazione precedente è stato tagliato in maniera considerevole. L'ambiente, la pulizia dell'aria, siamo la quarta città più inclinata d'Italia, fare sistema con l'università, fare sistema con la Camera di Commercio per creare posti di lavoro, per far sì che i nostri cervelli, ricordo che abbiamo 61.000 studenti a Padova, cioè abbiamo una città nella città, ed è un delitto perdere le nostre risorse che vanno all'estero, che vanno pure all'estero per imparare un'altra lingua, dopo che stiano a casa. Sì. Ammesso che questo sia, diciamo, nell'ordine delle possibilità per un sindaco, naturalmente io glielo auguro, questo sicuramente si senta. Ha sentito Renzi direttamente, Matteo Renzi? Sì, ieri sera Matteo mi ha chiamato per farmi i complimenti, ha detto che sarebbe una cosa da clonare il nostro esperimento. Ma lei condivide l'ottimismo di Renzi, che dice tutto sommato abbiamo ottenuto più città del centrodestra, quindi non vede in queste elezioni una sconfitta che altri invece vedono, perché PD ha perso molte città che prima amministrava? Questo, guarda, non ho avuto il tempo di verificare a livello nazionale cosa è successo. So che Padova è stata una di quelle che ha cambiato rotta. Devo dirlo con molto orgoglio, perché io faccio il politico, confesso, da 5 mesi, per cui sono un politico per modo di dire. Io sono contento di quello che è successo, felice per i valori che abbiamo, felice per il risultato che ho ottenuto, anche perché nel frattempo ho avuto un ictus, per cui non è stato certamente semplice. Il mio modo di fare è non mollare. A me interessa la città, non mi interessano altre cose. Siamo due candidati civici. I partiti hanno fatto anche un passo indietro e penso che sia stata anche la soluzione giusta. Fare qualcosa per Padova è il mio obiettivo, cambiarlo radicalmente. Una città aperta, ospitale, senza liti, senza litigi. Questo è il mio obiettivo. Va bene, grazie. Allora al neo sindaco di Padova, Sergio Giordani, grazie per essere stato con noi. In bocca al lupo, a presto. La ringrazio, arrivederci. Arrivederci davvero, grazie. rispetto a quello che abbiamo appena sentito a Padova, c'è una città che tra le tante che è stata riconquistata dal centro-destra, in questo caso parliamo dell'Aquila, dove appunto il percorso è quello opposto dopo 10 anni, in questo caso di centro-sinistra, tra l'altro anni caratterizzati, come sappiamo, molto anche dalla gestione del post-terremoto, ricordiamo il terremoto del 2009 all'Aquila. Adesso in questa città il centro-destra torna a guidare appunto la città, con Pierluigi Biondi, 42 anni, dipendente pubblico, candidato di un centrodestra unito. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera a voi e agli ascoltatori. E allora, un'elezione questa però caratterizzata, intanto complimenti per questa elezione, Biondi, da una grazie. Rimonta tra il primo turno, dove invece in vantaggio c'era il centro-sinistra, e un secondo turno dove appunto avete effettuato questa scalata. Cosa pensa possa essere dovuto questo risultato? Per certi aspetti, forse per chi non ha visto le cose magari da vicino, era anche non così atteso. No, non era per nulla atteso, anche se c'era, io che ho fatto tante campagne elettorali, respiravo un'aria di positività, un entusiasmo intorno a noi che mi faceva ben sperare. Poi il secondo turno è sempre una partita 0-0, è stato un voto più libero rispetto al primo turno, non c'era il condizionamento delle liste forti che aveva della coalizione del centro-sinistra, e quindi gli aquilani liberamente hanno scelto tra due proposte di governo alternative, hanno scelto il cambiamento. Allora, presidente Berlusconi, ex presidente Berlusconi dice adesso che è necessario rilanciare una coalizione di centrodestra con un'alleanza da definire, un'alleanza liberale. Voi vincete, lei stesso ha una storia molto radicata a destra, con sì. Un passato vicino al Movimento Sociale, Fronte della Gioventù, eccetera. A festeggiare con lei c'era Giorgia Meloni. Crede in una coalizione che vada dalla estrema destra fino a quello che oggi è Berlusconi? Forza Italia è un partito tutto sommato di centro, perché sta in una è stato in un'alleanza anche col Partito Democratico, ma insomma sta alla finestra da questo punto di vista, fino ad oggi. Ma guardi, io diffido da queste categorie così rigide. Io credo che la coalizione di centrodestra, quando si presenta con un programma serio, credibile e con persone affidabili, vince. Non è una questione lessicale, secondo me è una questione di idee, di capacità di spendersi sul territorio e di rappresentare delle idee di città più vive, più ricche, più giuste, più eque, più innovative. Io credo che bisogna andare un po' oltre il superamento di certi pregiudizi, ecco, di natura solamente nominativa a questo punto. E va bene, io la ringrazio, sindaco Biondi, ancora complimenti per questa elezione. Neo sindaco dell'Aquila, in bocca al lupo naturalmente a lei e a tutta la città. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille, arrivederci. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Il bando ai paesi islamici, la Corte Suprema degli Stati Uniti lo ammette per quei cittadini che non hanno un legame nel paese. Per Trump si tratta di una vittoria. Ragazzo italiano accoltellato a Londra, cause ancora da accertare, dice Scotland Yard. Ballottaggi per Berlusconi, vince il centrodestra moderato, ribatte la Meloni, la moderazione non esiste, Renzi è un risultato a macchia di leopardo e rivendica 67 sindaci contro 59. Convalidato l'arresto di Diele per omicidio stradale, manca però il braccialetto elettronico, l'attore resta in cella. Roma come Pompei, scoperta una casa romana di legno intatti, parte del solaio, dei mobili, dei mosaici e degli affreschi. Buonasera ad Alessio Maurizio, ben ritrovati con Effetto Notte. 349-238-6666 per il vostro commento alle notizie del giorno. Ripartiamo dall'ultimo dei titoli che avete appena sentito. A Roma, scoperta durante gli scavi in un pozzo della metropolitana C, una casa romana di legno intatte. Sono state trovate parti del solaio, come abbiamo sentito, appunto dei mobili, ma anche degli affreschi e dei mosaici. Lo scavo fatto dalla sovrintendenza lo scavo fatto dalla sovrintendenza archeologica ha portato alla luce la prima struttura in legno rinvenuta intatta, un fatto eccezionale reso possibile da un incendio avvenuto all'epoca, naturalmente, che ha poi carbonizzato e fissato la situazione e i materiali presenti, tra le macerie anche gli scheletri di un cane e del suo cucciolo. I reperti saranno poi smontati e conservati probabilmente nel museo della stazione. Diamo la buonasera a Simona Morretta, che è l'archeologa. Buonasera, che buonasera. Dirige proprio gli scavi di cui stiamo parlando. E allora, si tratta di una scoperta importante, ma che valore ha? Cosa ci dice che non sapevamo prima o che ci mostra che magari non avevamo ancora visto in quel modo? È la prima volta che a Roma vengono ritrovati dei resti lignei di un solaio di un edificio antico, e questo è veramente un unicum, ha una valenza eccezionale. Possiamo verificare con tutti questi frammenti di legno che abbiamo rinvenuto quello che ci racconta Vitruvio di come si dovevano costruire i solai, e quindi le travi, i travetti, il tavolato superiore e anche tutto ciò che veniva messo sopra e sotto, sì, cioè la preparazione per il pavimento a mosaico della stanza del piano superiore e sotto le canne palustri al quale si attaccava l'intonaco del soffitto. Ecco, ma tutto questo è stato possibile, questo ritrovamento in queste condizioni di mantenimento, un ottimo livello di mantenimento, se abbiamo capito bene, a causa di un incendio, forse addirittura legato ad un terremoto, è così? Sì, questo edificio è stato investito da un incendio nel III secolo d.C., e le fiamme non hanno attaccato direttamente il legno del solaio, ma questo legno un po' bruciato ha continuato a covare sotto le macerie dell'edificio crollato fino a che si è trasformato in carbone, e questo ha consentito di ritrovarlo in grande quantità e in modo molto leggibile. Lei ci stava descrivendo che cosa avete scoperto e che cosa lascia immaginare di come poteva essere quel frammento della Roma antica. Stiamo parlando, se abbiamo capito bene, di una parte nobile della città. Ci sono già altri ritrovamenti nella zona che poi, come dire, vanno a ricomporre un puzzle, no, più ampio. Sì, naturalmente lo scavo non è ancora terminato e quindi le ipotesi sulle quali stiamo lavorando sono diverse. Una è quella che al momento ci sembra più verosimile, è che questi ambienti, questo edificio, possa far parte della caserma rinvenuta poco tempo fa e ben nota di via Ipponio, quella caserma di età adrianea rinvenuta sempre in uno scavo della metro C. E ci sono diversi punti di contatto tra il nostro edificio e la caserma, la tecnica costruttiva, le quote sia di soglia che della rasatura dei muri. I nostri ambienti però hanno dei rivestimenti di pregio, di lusso, sono ambienti riscaldati con mosaici sul pavimento, affreschi sulle pareti in una stanza, nell'altra stanza abbiamo ancora i segni delle grappe di metallo che sostenevano le lastre di marmo, quindi ambienti forse di rappresentanza all'interno della caserma, se non addirittura termali, ma questo ancora non lo possiamo dire. Beh, gli scavi, come ha detto lei, andranno avanti. Intanto si conferma sicuramente Roma, ma già lo sapevamo, una stratificazione sull'altra di rovine archeologiche. Però venendo a temi probabilmente più prosaici, questa scoperta, questi scavi potranno avere un impatto sui lavori della metropolitana, che già di per sé hanno, come dire, una loro durata, cioè ci saranno dei possibili rallentamenti, domanda da milioni di dollari forse? No, non ci saranno rallentamenti, perché intanto questo è un pozzo tecnico, è un pozzo che si sta realizzando a tutela delle vicine mura aureliane, cioè della cinta muraria antica, e andrà in dismissione questo pozzo quando la talpa che scava la galleria sotterranea della metropolitana sarà passata sotto le mura. E essendo un pozzo tecnico non ha nessuna influenza, diciamo, nel cronoprogramma di costruzione della metropolitana. Inoltre tutto quello che noi stiamo trovando viene scavato, viene delocalizzato, quindi portato in superficie per poi essere rimontato in una sede alla quale stiamo pensando. Potrebbe essere il museo della stazione, come abbiamo letto? Potrebbe essere. Va bene, grazie per ora Simona Morretta, archeologa che dirige gli scavi della metropolitana C, dove è stata fatta questa importante scoperta. Adesso cambiamo argomento perché oggi c'è stata la terza prova degli esami di maturità per gli studenti che la stanno affrontando, una prova che questa sia macchia di leopardo sul territorio italiano, perché a differenza delle altre due prove non è preparata a livello nazionale dal Ministero, non ha la stessa durata per tutte le scuole, non prevede le stesse domande o anche le stesse materie. Gli studenti hanno da 2 a 3 ore per rispondere ad una trentina di domande a risposta multipla, il cosiddetto quiz o quizzone. Con noi Serena Rosticci, buonasera Serena. Buonasera a tutti. Giornalista di tuttoscuola.com che segue abitualmente tutti i temi che riguardano appunto la scuola. Come è stata questa prova, per quanto è possibile fare un riassunto, perché come abbiamo detto si tratta in realtà di tante prove diverse tra loro. Esatto. Beh, diciamo che la maturità 2017 sta volgendo a termine ormai, insomma, quindi i ragazzi direi che a questo punto sono abbastanza contenti. Probabilmente non saranno tutti soddisfatti allo stesso modo, da quello che abbiamo potuto intuire dando un'occhiata ai social, abbiamo visto che comunque i ragazzi l'hanno affrontata con parecchio panico, diciamo che è una delle prove che spaventa di più. Perché forse proprio perché non si sa bene cosa ci si può trovare di fronte. Possiamo provare a fare qualche esempio del tipo di quiz, del tipo di argomenti, del tipo di domande che ci sono stati. Esatto, come hai detto tu, i ragazzi si possono trovare davanti delle domande a risposta multipla oppure anche a risposta aperta. Le materie non le conoscono fino al momento proprio della terza prova, anche se è possibile intuirle, perché diciamo che già le materie oggetto della prima e della seconda prova non sono presenti nel quizzone. E poi di solito comunque le capiscono anche facendo le simulazioni di terza prova durante l'anno scolastico, quindi bene o male possono provare a indovinare quantomeno. È vero che non forse l'anno prossimo, ma l'anno successivo, cioè l'anno prossimo sarà l'ultima volta che ci sarà questo tipo di quiz, quindi di test, è così? Verissimo. Questo è stato l'esame di Stato che ha visto la terza prova per la penultima volta alla maturità, quindi l'anno prossimo ci sarà per l'ultima volta, dopodiché dal 2018-2019 la terza prova sparirà, ci sarà soltanto la prima e la seconda prova, scritta e poi il colloquio orale. Quindi insomma gli studenti di quest'anno sono, come dire, gli ultimi che hanno dovuto passare questa i penultimi. Certo, sì. E va bene, grazie Serena Rosticci di tuttoscuola.com. avete sentito dunque in che modo per quanto possibile raccontare quella che è stata la terza prova degli esami di maturità. Adesso ci fermiamo tra pochissimo per pausa sul traffico, poi torniamo 349-238-6666 per i vostri sms, anche su WhatsApp per commentare le notizie del giorno. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Il bando ai paesi islamici. La Corte Suprema degli Stati Uniti lo ammette per quei cittadini che non hanno legame negli Stati Uniti. Per Trump si tratta di una vittoria. Un ragazzo italiano accoltellato a Londra, accoltellato a morte, cause ancora da accertare, dice Scotland Yard. I ballottaggi per Berlusconi, vince un centrodestra liberale moderato, ribatte la Meloni. La moderazione non esiste, Renzi è un risultato a macchia di leopardo e poi rivendica 67 sindaci contro 59. Roma come Pompei, scoperta una casa romana di legno, intatte i parti del solaio, dei mobili, dei mosaici e degli affreschi. Parliamo del salvataggio delle banche venete, perché si sta perfezionando proprio in queste ore l'operazione che vede il salvataggio di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Dopo l'approvazione e poi l'entrata in vigore del decreto approvato dal governo, la Banca d'Italia ha confermato la cessione di una parte dell'attività Banca Intesa, Intesa San Paolo, così come previsto dal provvedimento stesso del governo, e sempre la Banca d'Italia ha provveduto alla nomina dei commissari. commissari liquidatori dei due istituti. Restano tuttavia sul tappeto un po' di domande, proviamo a rispondere ad alcune di queste con Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, qua con noi, buonasera. Buonasera, grazie. Grazie per essere con noi, Salvatore, grazie. E per aiutarci a capire un po', perché insomma, dicevo, ci sono delle cose che meritano ancora di essere spiegate in qualche modo. Proviamo ad andare per categorie. Cosa succede ai clienti della banca? Cosa cambia per i clienti della banca? Sembra di capire non molto, tutto sommato, per loro. No, per i clienti della banca, una buona notizia, per i clienti della banca. Già abbiamo una base di partenza. Esatto. No, per i clienti della banca, delle due banche, a dire il vero, non cambia nulla, perché da oggi, quindi da lunedì 26 giugno, chi ha un conto corrente in Veneto Banca o in Banca Popolare di Vicenza continua a, diciamo, poter operare sul suo conto con le stesse modalità previste in precedenza, anche se adesso, diciamo, il soggetto di riferimento diventa Banca Intesa. Quindi non c'è nessun impatto né sui conti correnti, né sui mutui, né sui prestiti, quindi, diciamo, per il cliente non cambia assolutamente nulla. Dov'è che invece le cose cominciano a cambiare, o come minimo, insomma, a notarsi una differenza, è laddove c'è l'intervento dello Stato. Oggi il ministro dell'economia Padoan dice: recupereremo questi 5 miliardi. Qualcuno fa un conto un po' più ampio di questo intervento. Quanto costerà allo Stato italiano e quindi ai contribuenti, tutti noi, questo intervento, Salvatore? Ma guarda, qui ovviamente entriamo in un territorio abbastanza scivoloso, nel senso che ufficialmente lo Stato ci mette poco più di 5 miliardi in questa operazione. Di questi 5,2 miliardi, di questi 4,8 miliardi, diciamo, vengono di fatto dati a Banca Intesa per garantire alla Banca Intesa la neutralità di questa operazione. In più ci sono altri 400 milioni che servono, diciamo, come garanzia, come ombrello per tutelare tutta quella massa di crediti cattivi che a un certo punto potrebbero, diciamo, sbucare qua e là tra le attività delle due banche che vengono assorbite da Banca Intesa. La cosa, diciamo, interessante e che in qualche modo sorprende anche me, se posso dire, è che questi 400 milioni di garanzie garantirebbero un ombrello che vale in realtà 12 miliardi di euro, quindi con un effetto, diciamo, leva moltiplicatore molto molto ampio. È evidente che è un concetto troppo, insomma, forse ampio, esatto, forse troppo ampio, e soprattutto un concetto, insomma, difficile da capire. Però lo diceva oggi Banca Italia, è un po' come l'idea, diciamo, del massimale delle assicurazioni, cioè non è che tu compri una polizza che ha un massimale da 20 miliardi e paghi 20 miliardi, cioè, diciamo, no? Quindi questo è un po' il senso di questa cosa. Però, diciamo, se posso tornare un passo indietro, giustamente dicevamo prima e tu chiedevi cosa succede ai correntisti, a chi ha i mutui, a chi ha un prestito, a chi ha le obbligazioni senior, non succede nulla. Però invece chi ha i famosi bond subordinati, le obbligazioni di categoria junior, beh, allora in questo caso qualche cosa, diciamo, potrebbe succedere, perché questi titoli qui sono di fatto azzerati. Tuttavia, un altro decreto, un provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri ha stabilito che se il detentore di questo bond subordinato è un cliente risparmiatore, un piccolo risparmiatore, e lo ha acquistato direttamente dalla banca, allora in questo caso è previsto un meccanismo che di fatto consentirà a questo piccolo risparmiatore di recuperare il 100% di questo bond. Tutti sono circa 180 milioni di euro di questa tipologia di bond in circolazione. Poi c'è un altro 1,2 miliardi di questi bond che invece sono detenuti da soggetti istituzionali, diciamo, che invece verranno azzerati, persi. Ecco, allora, quindi riprendendo il filo, abbiamo capito che i clienti, esclusi quelli detentori di questo tipo di bond, per loro non cambia, non si paga nessun pedaggio, nessun prezzo. A pagare per ora è lo Stato che con questo, diciamo, giro tramite Banca Intesa entra nella partita. Perché però, rispetto a, questa è l'altra domanda, a come si è operato in altre situazioni, non si è ricorsi al cosiddetto bail-in, cioè correggimi se sbaglio, insomma, al salvataggio interno, quindi con un intervento anche proprio dei clienti della banca, grandi e piccoli, come chiesto dalle regole europee? Perché in questo caso l'Europa dice che va tutto bene? Ma dunque, perché effettivamente, dunque, il bail-in avrebbe comportato due conseguenze molto pesanti, cioè il coinvolgimento in questa procedura anche di tutti gli obbligazionisti senior e anche dei correntisti oltre i 100.000 euro, quindi diciamo anche tanti normali cittadini benestanti probabilmente, però insomma ci sarebbero rimasti. Qui in questo caso il governo italiano ha tentato con successo la strada di applicare a questa tipologia di crisi non la normativa internazionale, la normativa europea, ma la normativa nazionale, cioè proprio il testo unico bancario, rafforzato dall'idea che l'intervento dello Stato fosse giustificato per tutelare quei territori che, diciamo, intorno a queste banche vivono di un'economia, insomma, molto, molto importante, diciamo. Quindi questa è sostanzialmente la differenza. Sì. La sensazione è che, come dire, l'Europa in questo caso sia stata un pochino più di manica larga, diciamo così, nel valutare quale tipologia di intervento adottare. Ecco, poi l'ultima cosa, chiarito anche questo aspetto, che mi viene da chiederti, spiegandolo al mio portinaio, al mio vicino di casa, a mia nonna, a mia mamma, a chi ti pare, la domanda che tutti si fanno: ma questi soldi che sono spariti, perché qua stiamo parlando di due banche fallite, dove sono finiti? Cioè, tecnicamente sono da qualche parte, se l'è messo in tasca qualcuno, non si saranno azzerati, insomma, ecco. No, diciamo, questi soldi adesso non sono né spariti, anzi, diciamo che poi la speranza di tutti, anche della Banca d'Italia che oggi è intervenuta, è di recuperarli, quindi sono, diciamo, crediti, quindi prestiti della banca che sono in sofferenza, alcuni di questi sono in sofferenza, diciamo, più di grossa. Altri, grossa. Probabilmente, diciamo, con lavorandoci con calma e quindi avendo conferito tutti questi asset, diciamo, a queste bad bank o insomma queste strutture che hanno raccolto appunto queste passività qui, forse ci sarà la possibilità di recuperare una parte significativa, ancorché probabilmente non tutto, questi importi, insomma. Quindi è anche il motivo per cui oggi la Banca d'Italia, intervenendo, diceva: no, attenzione, perché non è vero che lo Stato sicuramente ci rimetterà, perché forse alla fine, diciamo, potremo recuperare gran parte di quei 5 miliardi. Quello che non si capisce è se è tutto così semplice, com'è che siamo arrivati fino a questo punto. Il problema è che per recuperare questi importi qui serve tanto tempo, servono anni. Perché le nostre, diciamo, procedure. Quindi nel lungo periodo forse le recupereremo, salvo che nel lungo periodo, come diceva qualcuno, esatto, saremo tutti dall'altra parte, esatto, chissà però dove. Qui il problema è che per stamattina questi soldi dovrebbero esserci. Va bene, grazie come sempre Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, per averci aiutato a spiegare la crisi e insomma l'operazione di salvataggio delle banche venete, che oggi ha avuto nuove notizie, nuovi sviluppi. E adesso, tra l'altro, vi facciamo sentire invece la voce dell'amministratore delegato dell'Intesa San Paolo, Carlo Messina, che ha detto: interveniamo per tutelare il risparmio, l'occupazione e le imprese, e poi ha escluso anche che ci siano dei licenziamenti, ha detto ci saranno soltanto delle uscite volontarie. Sentiamo Messina. Interveniamo in questa operazione per tutelare il risparmio di 2 milioni di famiglie, l'erogazione del credito di 200.000 imprese e l'occupazione di 10.000 persone. Credo che siamo la soluzione per accelerare la crescita del nostro paese. Clienti e correntisti possono stare tranquilli perché entrano a far parte di un grande gruppo europeo, uno dei più solidi e più forti in Europa. I possessori di titoli subordinati famiglie, quindi non investitori istituzionali, verranno certamente rimborsati da parte dello Stato e da parte di Intesa San Paolo. E questo era l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina. C'è un aggiornamento per quanto riguarda la notizia del ragazzo italiano di origini sarde, Pietro Sanna, accoltellato a morte oggi a Londra. Il Consolato Generale d'Italia a Londra, in stretto l'accordo con la Farnesina, in contatto con i familiari del ragazzo per prestare ogni assistenza necessaria con le autorità britanniche, stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto. Il giovane, originario di Nuoro, sarebbe il figlio di una nota famiglia di imprenditori del settore turistico, trasferitosi da un paio d'anni nella capitale britannica. Ad accoltellarlo, secondo informazioni di stampa tuttora però ancora da confermare, sarebbe stato un ladro sorpreso in casa dal giovane italiano. Alle 21:56 minuti è tutto per questa edizione di Effetto Notte. Noi ci risentiamo tra pochissimo per i titoli di GR24 delle 22, tra poco.